Benvenuti e benvenute a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Queste Tracce di Cinema, sono le 15 e noi stiamo partendo con la nostra 10ª puntata, ragazzi. 10. Ci festeggiamo? Incredibile. Siete pronti? Io sempre pronta a fare festa, non so voi. Lì vedo che c'è da bere. Sì, sì, sì. Alla grande, oggi un gran bel film, Soul Kitchen. Di un regista che io poi l'ho realizzato un po' dopo che ne abbiamo, insomma, abbiamo discusso la scelta, l'abbiamo scelto, e ho realizzato che è il regista di un film che oggi in questi giorni è nelle sale, Il Padre. Credo che poi ne parleremo anche con il nostro ospite, che quest'oggi è Alberto Crespi. Te l'anticipo, ma tu lo sapevi chiaramente. Beh, insomma, il regista di Soul Kitchen è Fatih Akin, poi ne parleremo magari un pochino, e intanto vi introduco un po' il film, no? Vi racconto un po' la storia. Un film del 2009, uscito nel 2010, ed è una commedia fondamentalmente che segue proprio i tratti proprio classici della commedia e anche un po', diciamo, di un neorealismo contemporaneo, perché comunque racconta la storia di due fratelli che vivono a Amburgo e che non sono proprio di Amburgo, nel senso che le loro origini sono greche, giusto? Sì, e tutto questo chiaramente emergerà alla grande nella colonna sonora, tutto questo melting pot, certo, di culture. Insomma, i nostri protagonisti sono Zinos e Ilias. Zinos è il proprietario di un ristorante, appunto Soul Kitchen di Amburgo, che non versa proprio in una situazione proprio fiorente e felice. La situazione del ristorante diventerà ancora più caotica quando lui verrà colpito da un colpo della strega, quindi da un terribile mal di schiena, e dovrà affidare, e partirà per trovare la sua fidanzata che è partita per Shanghai, affiderà il suo ristorante al fratello Ilias, che è Moritz Bleibetrau, che abbiamo già visto in Lola Corre, il fidanzato di Lola nel film Lola Corre, Moritz. Un po' ingrassato. Ed tra l'altro la copertina di questa settimana è tratta proprio dalla locandina del film, molto pop quella locandina. Sì, e quindi insomma Zinos affida il ristorante a Ilias, che se lo gioca durante una partita di carte, e perde questo ristorante. Quindi insomma succederanno tutta una serie di cose per cui cercheranno di recuperare, di riprendersi questo Soul Kitchen, sempre cercando di smettere di, sempre che riescano a smettere di litigare. Beh, insomma, se la musica è il cibo dell'anima, noi vi serviamo l'antipasto. I'm not trying to run your life. La musica è il cibo dell'anima, grida Zinos, ovvero, come ha già detto Ottavia, il protagonista del film. Questo film è, come si chiama, Soul Kitchen, infatti è tutto incentrato sulla musica soul, ma non solo, è meraviglioso, c'è il funky, c'è l'hip hop, c'è anche l'hip hop tedesco, un brano, c'è il reggae e il dub, e anche una canzone di Hans Albert, che è un cantante stella del cinema tedesco tra il 1930 e il 1945, che, ai quali sicuramente i tedeschi in qualche modo sono affezionati perché ce l'hanno messo nel film. Il regista dice che voleva che la macchina presa fosse musicale, e sul set ascoltavano sempre la canzone della colonna sonora in modo da sentire l'atmosfera giusta per i movimenti di macchina e degli attori, ovviamente, e i brani musicali strumentali soul danno trasparenza a ogni cosa, e le canzoni usate sono spesso un commento, un secondo o terzo livello di lettura. Questo dice il regista. Beh, diciamo che il regista poi ne parlerà sicuramente meglio di me, il nostro mitico ospite Alberto Crespi, però insomma è uno molto fissato con la musica, cioè in tutti i suoi film c'è questa, la parte musicale è fortissima. Io ricordo con grande piacere uno dei suoi, delle sue lavori migliori secondo me, insieme naturalmente a Soul Kitchen, La sposa turca, e secondo me è Crossing the Bridge, che non so se voi avete visto, però è veramente molto bello, e le sonorità che lui attraversa sono veramente molto molto interessanti. Questo pezzo invece era un pezzo degli Isley Brothers, che sono un gruppo soul R&B degli anni 50, che ha avuto un grande successo e ha influenzato molto la musica di quegli anni. I fondatori furono O'Kelly Asley Jr., Rudolph Asley, Ronald Asley e Verno Asley, tutti fratelli naturalmente, e la loro storia comincia nel 1954 nel quartiere di Lincoln Heights della città di Cincinnati in Ohio, quando il padre O'Kelly Asley Sr. convinse i figli a unirsi in un quartetto di musica gospel. La loro carriera si interrompe pochi mesi dopo, quando in un incidente Vernon, uno dei fratelli, viene ucciso. Si spostano a New York alla ricerca di una casa discografica, quindi non, insomma, tengono botta su questa cosa, insomma, di questa loro passione. Cercano una casa discografica che appunto accogliesse i loro brani, e la Teenage Record accetta e pubblica il loro primo singolo Angels Cry nel 1959. Questo gruppo, per finanziarsi, decide di intraprendere una serie di concerti di grande successo, durante i quali incontrarono Jackie Wilson, che era un tale scout della casa discografica della RCA, e gli fece registrare alcuni singoli. Pubblicarono Shout, il loro singolo di maggior successo, e poi Twist and Shout nel 1962. Si susseguirono anni caratterizzati dalla ricerca continua di una casa discografica, perché insomma erano abbastanza così monelli, ecco, non si sentivano mai a proprio agio dentro nessun tipo di circoscrizione, ecco, discografica. E comunque insomma continuano a fare musica, e l'apice del loro successo arriva nel 1973 con la hit That Lady, seguita da I Wanna Be With You e It's a Disco Night. Ricordiamo anche l'album Harvest for the World del 1976, che raggiunse la prima posizione della Billboard R&B Albums Chart e vendette più di 500.000 copie. Nel 1992 gli Isley Brothers vengono inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame da Little Richard. Gli unici ancora in vita hanno riunito la band nel 2011, con il progetto di rimodernarla, ma insomma abbiamo perso un po' le tracce, ecco. Però hanno avuto il fatto loro, hanno fatto un buon tempo della musica R&B. E come diceva David, anche in omaggio al titolo, la musica soul è il pezzo forte di, è la struttura portante di questo film. Ho scoperto anche una passione per queste tracce che a lui ha selezionato per la colonna sonora, non a caso quella che abbiamo appena ascoltato l'ho inserita proprio sul cellulare, sul mio telefono cellulare, e quindi me la posso ascoltare tranquillamente durante il giorno. E io volevo dire soltanto un'ultima cosa su questo pezzo, It's Your Thing, scritto appunto nel 1969, è stato un grande successo, anche ripreso da molti big, insomma, della musica, come i Jackson 5, che eseguono la canzone nel loro debutto televisivo e registrano il pezzo per il loro album BC Album, e Aretha Franklin registra lo stesso pezzo per il suo album Jump to It. Insomma, ce la sono cavata. Questi erano i Dyke and the Blazers con We Got More Soul. Dyke and the Blazers è stato un influente gruppo funk americano guidato da Alistair Christian. La band si è formata nel 65 e ha registrato soltanto fino al 71, però, quando Christian è morto. Tra i loro pezzi più famosi c'è la versione originale di Funky Broadway, e Let a Woman Be a Woman, Let a Man Be a Man. E dopo aver preso parte nella band di Carl Lariu, si riunì alla band di Phoenix, The Three Blazers, che includeva il sassofonista Bernard Williams e i musicisti Rich Cason all'organo e Rodney Brown alle percussioni. Nel 1966, grazie al loro manager Art Barrett, raggiunsero un notevole successo, e però nel 1977, stressati dai numerosi impegni e concerti che tennero all'Apollo Theater di Harlem, la band iniziò a sciogliersi e Dyke tornò a Buffalo e formò un nuovo gruppo. We Got More Soul, Let a Woman Be a Woman, Let a Man Be a Man sono state le loro più grandi hit. Christian stava preparando un tour con Barry White quando a soli 27 anni fu assassinato in una strada di Phoenix. E questa era Don't Do It, non lo fare, di Sly Johnson. Beh, insomma, è affascinante, insomma, scoprire le vite di questi musicisti, no? Di questi anni, perché insomma confrontano con dei geni, ecco. Per esempio Sylvester Thompson, che è appunto l'autore di questo pezzo, ha avuto a che fare nella sua carriera, ha cantato e suonato con qualche artista blues, così, cioè dei nomi veramente poco importanti: Magic Sam, Billy Boy Arnold, Julian Wells. Beh, insomma, persone veramente di tutto rispetto. Io sono emozionata per loro. Pensa che felicità, insomma, incontrarsi con queste persone, fare musica, scrivere canzoni, suonare. Beh, insomma, deve essere stato un bel periodo questo per i musicisti, no? Eh sì. E Johnson ha continuato a suonare fino agli anni 80, poi a metà degli anni 80 più o meno ha smesso. Nel 92 si è aperto un ristorante di fast food di pesce. Sì. E nel 92 però ha scoperto che la sua canzone Different Strokes era stata presa da vari rapper, tra cui Wu-Tang Clan, i Public Enemy, Cool G-Rap, Hammer e i Ghetto Boys, che come sapete spesso riprendono da vecchie canzoni blues, soul e funk, no? Comunque questo l'ha stimolato e ha deciso di fare un ritorno nel mondo della musica, e infatti nel 94 ha pubblicato l'album Back in the Game. È diventato uno degli artisti più campionati, pare, grazie proprio alla sua Different Strokes, ma anche It's Because I'm Black. E forte è il fatto che prende la musica originale, era sempre un artista senza costituisse un furto, no? Sì, certo. E quindi insomma ha citato in giudizio per violazione del copyright alcuni di questi artisti che insomma si erano un po' approfittati del fatto che lui fosse distratto a friggere pesci. should I let myself go in his direction? Is his love strong enough for my heart's protection? If I gave him my heart, would he refuse it? Would he tear it apart or tenderly use it? Mamma mia, che pezzo questo! Un pezzo meraviglioso, ma è di Ruth Brown, I Don't Know. Ma che dite, Amy Winehouse si sarà un pochino ispirata? Beh, se ha sentito questo pezzo sicuramente sì, non può essere altrimenti. Proprio il modo di cantare. Chi è Ruth Brown? Ruth Brown è stata una cantante e attrice statunitense, nata nel 28 e morta nel 2006. È stata celebrata per almeno due decenni e utilizzò tutta la sua influenza nell'ambiente per fondare l'organizzazione senza scopo di lucro Rhythm and Blues Foundation, dedicata alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale del R&B. Ruth cominciò a cantare nel coro già all'età di 7 anni, il coro gospel della chiesa, come molti altri cantanti afroamericani hanno fatto. Però poi ovviamente preferì esibirsi nei bar e nightclubs, e nel 45, all'età di 17 anni, scappò di casa con un trombettista, Jimmy Brown, che presto sposò, da cui prese il nome, e per cantare nei bar e nei club. Poi nel 55 si risposò con il sassofonista Early Swanson, da cui ebbe un figlio, e successivamente fu incinta di Ronald David Jackson, un altro musicista dei Drifters, e crebbe nella condizione di essere il figlio dell'accompagnatore della madre, Willis Gator Jackson. Oh, anche questa l'ho messa tra le mie preferite. Lo so, mi voglio risentire Syl Johnson con Don't Do It, perché forse metterò anche quella. Finora due pezzi me li sono salvati e sono tra i miei preferiti. Cos'era, David? Questo era Steven Pfeffer con il pezzo strumentale Arzia. Oh, questo ci introduce all'ospite di questa settimana, di questa puntata, Alberto Crespi, che è sempre un piacere avere con noi. Ci sei, Alberto? Eccoci qua, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Ben trovato, come va? Tutto bene, tutto bene. Allora, ti chiedevo questo contributo a partire dal, insomma, dalla personalità del regista. Il film, intanto ti chiedo cosa ne pensi di questo Soul Kitchen. Soul Kitchen era un film molto carino, molto divertente, ma oltre che divertente anche con dei valori di scrittura, di regia e di tematica anche piuttosto forti. Vorrei ricordare che è un film scritto, diretto da un turco, Fatih Akin, è scritto e interpretato da un greco, da Adam Buzdoukos. Sì. E che un turco e un greco lavorino insieme è già di per sé una bella cosa, perché sì, ricordiamo che sono due popoli che si sono combattuti e odiati per secoli. In questo Fatih Akin è veramente un personaggio, mi viene da definirlo un regista crossover, se mi passate l'espressione. Come no? Perché sì, è un turco cresciuto in Germania, per cui per certi versi è un regista tedesco, però la sua turchitudine, si potrà dire, o turchità, è molto forte. Però ecco, in questo caso ha appunto lavorato con un artista greco che è lo sceneggiatore, che è l'interprete del personaggio principale, che si è scritto in qualche modo il film addosso. Ricordiamo che l'ultimo film di Fatih Akin, che è attualmente nelle sale, che è un film purtroppo non molto riuscito, però comunque è un film importante, perché si intitola Il Padre ed è credo uno dei primissimi, se non il primo film realizzato da un turco in cui si racconta il genocidio degli ebrei, degli armeni. Chiedo scusa per questo lapsus terrificante, stavo per dire il genocidio degli ebrei. Vabbè, sono due genocidi che hanno contraddistinto il Novecento e sappiamo benissimo che del genocidio armeno se ne è parlato un po' meno. Sì, se ne è parlato ultimamente, dicendo genocidio armeno tra l'altro citiamo Papa Francesco e sappiamo di essere a rischio di arrabbiatura da parte di Erdogan e di tutti i governanti della Turchia, perché in Turchia almeno la parola genocidio, a proposito di quell'evento storico, ancora non si può usare, ancora è un reato, pensate. Ecco, Fatih Akin da turco ha avuto il coraggio di fare un film del genere, bisogna riconoscergli di essere un artista, un cineasta che ama andare in territori diversi dai suoi, ecco. Sì, sì, sì. Un uomo di grande curiosità, come minimo, e già questa per un regista è una virtù importante. Stavo ragionando sul termine genocidio, ma l'uccisione di oltre un milione di persone non vedo come possa essere definito altrimenti, tra l'altro. Certo, certo. Sì. Stavo vedendo anche la locandina del film e tu parlavi dello sceneggiatore che è anche protagonista e mi sembra avere tutte le sembianze di un Jim Morrison greco. Bravissimo, hai anticipato la citazione che volevamo fare. Voi avete appena mandato un brano che si chiama Arzilla? Sì, io forse immagino Arzia sia la pronuncia, ma non sono così a orecchio. Ho davanti a me l'elenco dei brani musicali contenuti nel film, l'ho ritrovato su IMDb, che è un database cinematografico in rete molto, molto ricco e molto dettagliato. Sono una marea e questo brano che avete appena fatto ascoltare risulta come musica e parole di Steven Pfeffer, che sembra un nome tedesco peraltro. Sì. Ammetto di non conoscerlo. L'elenco di pezzi inseriti nella colonna sonora del film è sterminato, tocca molti generi, però non c'è Soul Kitchen, perché Soul Kitchen, ricordiamolo, è anche il titolo di una canzone celeberrima, una delle canzoni incluse nel primo leggendario LP dei Doors uscito nel 1967. Però Fatih Akin non l'ha voluto usare, o forse non ha potuto averne i diritti, può anche darsi. Nel suo caso, tra l'altro, il titolo Soul Kitchen, la cucina dell'anima, ha un riferimento molto diretto alla trama del film, perché la trama del film gira tutto intorno a un ristorante. Un ristorante dove a un certo punto, ricorderete, il protagonista greco ingaggia un ristorante di Amburgo che sta per fallire, che ha problemi economici, e in cui a un certo punto ingaggia un cuoco appena licenziato invece da un ristorante di lusso, che introduce in questo posto molto popolare una specie di nouvelle cuisine, di cucina molto raffinata, che crea lo sconcerto tra i normali avventori abituati a mangiare würstel e patate. Poi però pian piano le cose si evolvono. Ma ricorderete che c'è quella scena bellissima in cui il cuoco gli dice: ma tu che gli dai da mangiare a sta gente? E lui gli fa vedere würstel, ketchup, senape, e lui gli scompone il würstel in mille pezzettini, fa dei disegni sul piatto con la col ketchup e con la senape, gli crea un piatto bellissimo a vedersi ma fatto con questi ingredienti così poveri, glielo mette sotto il naso e gli dice: chi è? Questo costa 50 euro. Ed è un film anticipatore di MasterChef in qualche misura. Un programma che per me è assolutamente di culto, spero di non scandalizzarvi dicendo questa cosa. Oh Alberto, stavamo, dicevi della colonna sonora, sono una quarantina i brani. Infatti. Una veramente quasi tutti di gente a me sconosciuta, lo dico prima, non fatemi domande appunto su Steven Pfeffer o su Bad Boy Bugitz. il nostro esperto in musica le ha suddivise per tre grossi filoni: il soul, che è chiaramente la struttura portante del film, e poi c'è una parte elettro hip hop tedesca, e poi anche reggae, insomma, che sono altri elementi di questo melting pot culturale. Certo. come ma qui vedo che c'è un brano addirittura eseguito da Gabriella Ferri. Sì. Mi risulta? Sì, è vero. La Paloma. La Paloma è un brano celeberrimo, naturalmente, di Sebastian Iradler, che sempre dall'elenco che ho davanti risulta eseguito nel film in almeno 6 o 7 versioni, tra cui gli Arti Show. In varie salse. E c'è di Gabriella Ferri e c'è di Natalino Otto, quindi è curioso, Fatia Kim conosce anche la musica popolare italiana, e soprattutto una musica popolare italiana raffinata, perché Natalino Otto sappiamo tutti che è stato il grande interprete che ha portato lo swing in Italia nell'immediato dopoguerra, e Gabriella Ferri è la cantante romana che tutti ben conosciamo, ma ci sono anche Louis Armstrong, gli Isley Brothers, Hans Albers, quindi anche musica colta. Ma Kim deve essere un grande appassionato di musica. Sì, sì. Ricordiamo che anche perché ciao Alberto, Ottavia. Ciao Ottavia, come stai? Bene. Un piacere sentirti. Scusa, non ti avevo ancora salutato, non ero sicuro se c'eri nell'etere di questa radio. E, insomma, sì, lui è un grande cultore di musica, e io stavo parlando prima con Federico e David di quest'altro suo, secondo me, lavoro straordinario, che è stato Crossing the Bridge. A me mi ha proprio segnato. No, cioè, no. Proprio un documentario straordinario. È un bellissimo documentario su tutte le forme di musica che convivono a Istanbul. Il bridge, infatti, l'attraversamento del fiume, è il passare sulle due rive del Bosforo, e quindi il mescolare Asia e Europa. Ciò che a Istanbul avviene, finché Istanbul continua, speriamo continui a lungo, naturalmente, a essere una città multietnica, multiculturale e multimusicale. Era un lavoro molto bello, uno dei suoi film più belli. Documentario o fiction, poco importa, era sicuramente, insieme a Sol Kitchen e alla Sposa Turca, uno dei suoi film più belli. Sì, lui comunque è un cultore della musica, cioè ci tiene moltissimo, insomma, non c'è dubbio, la musica nei suoi lavori. Alberto, non c'è dubbio. Rispetto alla sua cinematografia, io l'ho conosciuto, come credo la maggior parte degli altri spettatori in Italia, grazie alla Sposa Turca, che è il film, uno dei film, dei suoi film che più ho amato, probabilmente anche chiaramente questo Soul Kitchen è molto, molto godibile. E facevi riferimento anche al film che è ora in sala, il Padre. Ecco, in questi film precedenti ha questa nota di umorismo e queste piccole storie che sicuramente sono il suo registro migliore. Invece nel trattare di grande pathos e grandi scenari internazionali e storici, probabilmente non è riuscito per niente in questo film che ho. Allora, Il Padre è un film che secondo me ha due grossi difetti. Scusate, devo premettere che io l'ho visto a Venezia in concorso. Sì. L'ho visto in edizione originale, e paradossalmente credo che in edizione originale il film fosse molto peggio. Paradossalmente sono sicuro che vederlo tutto doppiato in italiano funziona meglio, e spiego perché. Perché, essendo una grossa produzione internazionale, lui ha girato tutto il film in inglese, e quindi uno assiste a una storia che si svolge in Armenia nel 1915, in cui ci sono gli armeni, ci sono i turchi, poi ci sono gente di altre etnie, perché la storia è molto complessa, e tutti parlano inglese. Francamente è grottesco a vedersi. Per noi italiani, come dicevo, è paradossalmente meno fastidioso vedere che tutti parlano italiano, se non altro non ci facciamo nemmeno caso. L'altro grosso difetto è drammaturgico. Questo padre che ricerca ansiosamente queste due figlie, alla fine diventa veramente, non voglio dire una marionetta, ma diventa veramente una specie di punching ball della storia. Gliene capitano veramente di tutti i colori. C'è una sceneggiatura iperscritta e ipercostruita, e anche il finale in America francamente è piuttosto incredibile. Ho trovato l'espressione che cercavo. Diventa una specie di gatto silvestro questo personaggio. Quei personaggi a cui capitano tutte le disgrazie più incredibili e si rialzano sempre. Dopo un po' dici, vabbè, però non si può. È possibile che capitano tutte a lui. In più, queste grosse produzioni internazionali portano spesso anche a delle scelte di cast un pochino bizzarre. Mentre sto parlando, e la sto tirando in lungo, sto cercando di aprire il file riferito appunto a Il Padre, sempre su quel database di cui sopra, perché in questo momento non mi viene in mente il nome dell'attore che è protagonista, ma mi sembra che sia Tahar Rahim. Federico, me lo confermi? Non te lo posso... Quello del profeta di Jacodiano. Però è lui, sì, è l'attore del profeta, sicuramente. È lui, ecco. Sì. Tahar Rahim è un attore molto bravo, che ha fatto anche l'ultimo film di Asghar Farhadi. Con i titoli oggi andiamo male. Però sì, comunque, ecco, è un attore francese magrebino, sì. Credo di origine algerina. Ho capito che noi mediterranei abbiamo tutti la stessa faccia, però prenderlo per fare un armeno è una stranezza. Lo prendi proprio perché è un attore popolare, un attore che probabilmente ti porta alla coproduzione francese. Però non so, ecco, io se fossi un armeno mi sentirei un po' in imbarazzo di fronte a un film del genere. Senti Alberto, come ogni volta abbiamo questa simpatica usanza di chiedere ai nostri interlocutori un film o dei titoli di cui hanno amato le colonne sonore, che amerebbero anche sentire via etere. Quindi ti chiedo questa cosa. Che domandona. quando si fa... Quindi colonne sonore magari comprendenti anche brani originali, non solo colonne sonore scritte direttamente per il film. Certo. Perché se uno pensa a colonne sonore di grandi musicisti, pensa subito a Bernard Herrmann piuttosto che a John Williams. Bernard Herrmann che faceva le colonne sonore per Hitchcock, o a John Williams che ha scritto i temi di Guerre Stellari, di Indiana Jones, dello Squalo, ecco, sì, i grandissimi, sì. No? Ma quando si parla invece di colonne sonore con brani preesistenti, dunque, non si può prescindere da Easy Rider, film invecchiato malissimo ma con una colonna sonora ancora da urlo. Sì. Non si può prescindere da Arancia Meccanica, che era un film che usava la musica preesistente, da Beethoven a Rossini a anche brani di musica pop, in una maniera talmente geniale. Sì. Carlos Williams era il... Era Walter Carlos. Walter Carlos, scusami, sì. Walter Carlos, che è una storia curiosa, tra l'altro. Walter Carlos è la stessa persona che firma alcuni dei brani di Shining, sempre di Stanley Kubrick, con il nome di Wendy Carlos. Perché negli anni trascorsi tra un film e l'altro aveva cambiato sesso. Storia interessante, uno dei pionieri o delle pioniere dell'uso della musica elettronica, i sintetizzatori, sì. La riscrittura di brani classici attraverso appunto gli strumenti elettronici. Poi, se devo parlare di grandi compilation di musica del passato, forse il film più ricco da questo punto di vista rimane Forrest Gump. Forrest Gump è una gioia per le orecchie quando lo si rivede. Pensa che abbiamo litigato decidendo che quale film avremmo fatto durante questa la puntata di oggi. Abbiamo litigato in modo abbastanza violento proprio su Forrest Gump, quindi insomma, cioè? Beh, insomma, siete uno favorevole e uno contrario, non no? Ti dico chi era d'accordo e chi non era d'accordo, perché questo non lo svelo, però insomma abbiamo discusso animatamente, ecco. Quindi apri una ferita aperta. Ho capito, ho toccato un nervo, una cicatrice, insomma, che non dovevi o toccare, meglio, una ferita ancora non rimarginata. Quindi chiudiamo il collegamento, grazie tante, mi ha fatto piacere. Mi sa che eri tu quella contraria, allora. No, sto scherzando. Yeah. E poi, e quindi abbiamo, erano questi i titoli. Beh, noi abbiamo segnato comunque. Sì, bene. Ditemi. Alberto, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Benissimo, quando fate Forrest Gump chiamatemi. Ok. Ciao Alberto. Presto. A presto, buona giornata. Yo, Jan Delay, City Walks, das ist Hamburg und die Sonne scheint. Oh ja, ja, nehmen die Sound out, den gelben Sound auflegen. Ja, dann drehen alle durch, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Nehmen die Sound out, den gelben Sound aufdrehen mit der Landen und alles in Lauf aufgehen. Nehmen die Sound out, den gelben Sound auflegen. Ja, dann boxen die Boxen, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Nehmen die Sound out, den laut aufdrehen mit der Landen und dann ist es auch aufgehen. Ich sehe da alle, die in mir auch nicht alle sind. Alle, die in mir noch nicht in der Falle sind. Alle, die ab Rocken und Party machen. In Kellern oder Bunkern oder in Kasemann. Zu 100 in einem kleinen Raum. 60 Grad und eine Luft, da will keiner einen Baum. Nee, der Sound ist so laut, dass man sich nicht nach vorn schaut. Sonst kriegst du auf den Trommelfellen Hornhaut. Wir senden sie in die Welt, live und direkt aus der Schanze. Wenn Cindy Walks am Set ist, Digga, ich hatte jeder Tante. Wir senden sie in die Welt, live und direkt aus dem Schanzenviertel. Wenn Cindy Walks am Set ist und Jan Delay am Mic hängt, Digga, dann tanzen wir. Wir nehmen die Sound out, Digga, den Sound auf, Digga, dann drehen alle durch, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Wenn die Sound out, Digga, dann laut aufgehen mit der Landen und alles im Lauf aufgehen. Wenn die Sound out, Digga, den Sound auf, Digga, dann boxen die Boxen, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Wenn die Sound out, Digga, dann laut aufgehen mit der Landen und alles im Lauf aufgehen. Boxen die Boxen, die Menge rockt mit. Eben ab und Silly Walks rockt im Cockpit. 2 12 10er und ein Mischpult, ein Steuerknüppel. Rot durch sie wie in Luftlöchern die Leute schütteln. Bässe pumpen, ein wahres Bassmassaker. Ich sage Feuer, Feuer, aber kein Wasser da. Die Feuerwehr fragt, what the deal, ja. Das sind ja die Leia Mike und am Set sind Silly Walks. Wir senden sie in die Welt, live und direkt aus der Schanze. Wenn Cindy Walks am Set ist, Digga, ich hatte jeder Tante. Wir senden sie in die Welt, live und direkt aus dem Schanzenviertel. Wenn Cindy Walks am Set ist und Jan Delay am Mic hängt, Digga, dann tanzen wir. Nehmen die Sound out, Digga, den Sound auflegen. Ja, dann drehen alle durch, dann tanzen Frauen auf dem Tresen. Nehmen die Sound out, Digga, dann laut aufdrehen mit der Landen. E questo era Soundhagen performed by Jan Delay. Che ci dici di Jan Delay, Ottavia? Jan Delay è un autore, un cantante, un produttore tedesco che ha incluso nella sua produzione musicale hip hop, reggae, dub e funk. È stato un artista solista di successo, membro della band tedesca Absolute Beginner. E la Boom è nata ad Amburgo il 25 agosto del 1976 e diciamo che non ha avuto una carriera musicale così di commerciale, ecco. Però è stato interessante il suo percorso alternativo, perché nel 1997 ha fondato un'etichetta, la sua etichetta, le Ambush, insieme a vari partner della scena hip hop di Amburgo, e il loro obiettivo era quello del sostenere e guidare i talenti freschi ed emergenti metropolitani e spianare loro la strada del mondo della musica. senza svenderli in un certo senso, ma chiaramente come vuole il mercato questa etichetta è stata chiusa nel 2003 a causa di motivi finanziari e di conseguenza anche dell'idea ingenua di credere che possa esistere un talento e una popolarità fuori dal mainstream. Mi sembra abbastanza ovvio l'omaggio Absolute Beginners alla hit di David Bowie. Penso di sì. For we've been traveling more than 2,000 miles, more than 2,000 Questi erano i Burning Spears con Walking in Dub. E Roots and Culture. Mi viene da dire a questo. Che grinta, David. Da paura, David, è un grande. David è un grande. Senza la sua, diciamo, preparazione musicale sulla scelta dei film, probabilmente io e te, Federico, non saremo niente. Anche visto. Questa trasmissione non si potrebbe fare senza David. Vabbè, comunque, Burning Spear, nativo come Bob Marley e Marcus Garvey, considerato uno degli artefici del reggae grazie anche ad aver vissuto appunto nell'epoca Marley. Burning Spear, lancia fiammeggiante, ha preso in prestito il nome di battaglia da Jomo Kenyatta, leader dell'indipendenza del Kenya, e esordisce nel 1969 con il singolo Door Peer, prodotto da Coxon Dodd. Burning Spear è noto per i suoi messaggi a favore del movimento rastafariano e crede nella funzione del proselitismo religioso e del riscatto sociale grazie alla musica reggae. Oh, ricordiamo qualche numero, Ottavia, ci pensi tu? Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, se non ve ne siete accorti. Visto che siete all'ascolto, dovete fare una cosa: dovete sottoscrivere al conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volci 56 00185 Roma, perché questa radio è libera e vive grazie alle vostre sottoscrizioni e al vostro amore. Oh, chiudendo con Soul Kitchen, prima cercavo qui su YouTube, vedo che c'è la versione completa però in spagnolo. Però se volete potete mandarci un'email e David vi trasferirà la versione completa del film in italiano. quando anche volete. Anche se si tratta di musica, che sia in spagnolo, poi il doppiaggio, cioè, è relativo. Se sì, uno vuole, certo, sentirsi la bella musica, cioè, vuole però magari vuole seguire anche il film, seguire bene le battute. Ma si capisce anche in spagnolo. Vabbè, perché tu sei poliglotta, ma per esempio io in spagnolo un film non lo riesco a seguire. Dai. Ci dà appuntamento per giovedì prossimo? Ci vediamo giovedì prossimo, vi lasciamo con Cool and the Gang, Rated X.